Quando io le dicevo non sperare d'avermi come gli altri ai tuoi ginocchi, coi cuor tu ti compiaci di giocare come con dei balocchi, ma il mio non è per te. Negli occhi mi fissava e sorrideva con perfida baldanza femminil. Ti voglio, tu mi piaci, mi diceva con un languor sottil. Tu non mi vuoi perché? Perché sei strana, crudele vana. Le dicevo, le scrivevo come una coppa di champagne tu mi puoi dare la folle ebbrezza che mezz'ora può durare, mentre il mio cuore cerca un amore per la vita. Lasciami star, facciamola finita. Voglio una donna tutta mia, anima e cuore. Voglio una donna che mi offra un puro fiore. Tu hai del sole lo splendor, ma come il sole. Tu sei di tutti, crude parole, ma è così, gemmi. Ma sensi e giovinezza m'han tradito, ella era troppo bella e son caduto. Un giorno con un bacio m'ha stordito e mi senti perduto, non resistetti più. Qual piovra dai tentacoli voraci in breve alla mia vita s'avvinghiò. Nei gorghi del piacer con folli baci ella mi trascinò sempre più giù e follemente, perdutamente, le dicevo, le scrivevo come una coppa di champagne ti vogue. Fra le tue braccia può morire di piacere, senza di te non so che farne della vita. Schiavo ti sono, hai vinta la partita. Ma bada te di non scherzar con questo amore. Ti voglio mia, anime carne, anime cuore. Tu hai del sole lo splendore come il sole. Tu mi avvisoni, folli parole. Ma è così, gemmi, ma